can be against us. If Jah is for my people. Benvenute e benvenuti a Radio Africa, trasmissione del sabato pomeriggio di Radio Onda Rossa, dedicato alle sonorità del continente africano, sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 della modulazione di frequenza. Africa, Africa, won't you be free? Free. 06 49 17 50 il contatto telefonico. Africa, won't you be free? As I know your system is a plot against my people, but if Jah be for us, nobody can be against us. If Jah is for my people, prima trasmissione del 2014, vi ricordo che Radio Onda Rossa non fa pubblicità, quindi se volete sostenere questa radio, il conto corrente postale è il 6180 4001, intestato alla Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, Via dei Vosci 56, Roma. Africa, want to be free, like a lion. E vi ricordo anche che sono disponibili le agende Scarceranda, autoproduzione di Radio Onda Rossa contro il carcere, disponibili qua presso i nostri studi a 12 euro, oppure potete trovarle nelle varie iniziative in giro per Roma che presentano appunto questa iniziativa di Radio Onda Rossa. Political freedom. If you don't know, if you don't, you got to know. Oh, oh. Mama Africa is not free. Oh, free. Oh, free. Mama Africa. E allora cominciamo con le nostre selezioni per questo sabato e cominciamo con un po' di Afrobeat, un progetto di cui abbiamo parlato spesso, Red Hot Riot primo, perché è uscito anche il secondo album, ed è un progetto che appunto dove molti artisti si confrontano con Fela Kuti, con i suoi brani. E in questo progetto è un progetto a sostegno di un'organizzazione non governativa che si impegna nella lotta contro l'AIDS in Africa. E allora loro sono un gruppo come Michel Desiosello, una bellissima voce, Yerba Buena e Ron Blake in questa versione di Gentleman. Yeah, yo, Jay, turn it up. write a check that your soul can cash. Even in a suit and tie, gentlemen, you murder, you civilized. You thought the summer never said it. Check your soul. You thought the summer never said it. Check your soul. Did your mind write a check that your soul can cash? Check your soul. Even in a suit and tie, gentlemen, you murder, think you civilized. You thought the summer never said it. Check your soul. You thought the sun would never set. Check the sun. Just thieves in a suit and tie. Yeah, come on. Yeah. Just thieves in a suit and tie. Yeah, original. Come on. Africa hot, you rolling up in ties, coats and socks. Cause you said the sun would never set. Check your soul. You said the sun would never set. Check your soul. Africa hot, you rolling up in ties, coats and socks. You said the sun would never set. Check your soul. You said the sun would never set. Check your soul. Check your soul. Check your soul. Just thieves in a suit and tie. I'd be African. Just thieves in a suit and tie. Come on. I just wanna tell you something about, you know, the relationship about this girl. Just in a suit and tie. Come on. Don't you get me? You see, you need a lot of endurance, patience. Everything, you know, to, you have to put everything into this affair to make your own head work fine. And when you work it out fine, everything's gonna be cool for you. Check it out, man. Some people don't like me, say I'm too cultural. Guess I'm supposed to crawl, guess I'm supposed to fall. No, poke you all, and I hope you all understand. If the dam breaks, I'll soak you all. Create my own category for free that you need to see frequently. I'm living in my own world secretly. It seems like only music can speak to me. I'm deaf to the brand name and fame. It's nothing but a code name, gold chain. I faced it, wore it like a bracelet. My face lit when I heard Tony Allen. Unclipped my helmet, jumped off the spaceship. Intrigued by the strange fruit, I tasted. Mama never told me to waste shit. Bitter to the taste, so I quickly replace it. I detect movement and stay stiff. Who goes there? Speak up or get a facelift. And from the moment she appeared, nothing was the same again. Nope. We've only got words to hustle, we hand to hand. Tussle with man to man, bustle with man to man. Words to hustle, we hand to hand. Tussle with man to man, bustle with man. We've only got words to hustle, we hand to hand. Tussle with man to man, bustle with man to man. Words to hustle, we hand to hand. Tussle with man to man, bustle with man. Lui è Tony Allen, che fu il batterista di Fena dal 1968 al 1979 in questo brano Human to Man dal suo Home Cooking. Rapture in me, me. We dance in a circle of awe across the world floor and over the sea. She, is she a person or a planet? I just don't know, but our worlds collide. Trapped in a bubble called pride. Inside, love is like carbon monoxide. And I haven't got a clue how to win, even if I'm supposed to. You know why? You know why? Some planets you will not get close to. Some planets you will not get close to. Some planets you will not get close to. Some planets you will not get close to. Some planets, some planets. We've only got words to hustle, we hand to hand. Tussle with man to man, bustle with man to man. Words to hustle, we hand to hand. Tussle with man to man, bustle with man. We've only got words to hustle, we hand to hand. Tussle with man to man, bustle with man to man. Where's the hustle? We hand to hand, hustle woman to man, bustle woman. We gonna get. Where's the hustle? We hand to hand, hustle woman to man, bustle woman to man, bustle. Where's the hustle? We hand to hand, hustle woman to man, bustle woman. We gonna get. Where's the hustle? We hand to hand, hustle woman to man, bustle woman to man, bustle. Where's the hustle? We hand to hand, hustle woman to man, bustle woman. Gentlemen, we would like to invite you to another Afrobeat Academy session. Who say Afrobeat died among here? Who say Ababi Etano de among us? I lie, they didn't talk. Attentively, lui Adebantu fa parte di un collettivo Bantu dei New German Brotherhood Alliance Navigating ed è sostanzialmente uno dei maggiori esponenti della scena hip hop tedesca, ma lui è nigeriano immigrato appunto in Germania, e col suo album Fuji Satisfaction Bantu ospita un altro grande personaggio che è uno dei maggiori interpreti del genere Fuji, Ayuba. E allora da questo album appunto ci stiamo ascoltando questo brano, Listen Attentively. You don't care. If you don't get mouth, you don't talk. If you don't get head, you l'Afrobeat dalla Germania agli Stati Uniti. Loro sono i Master at Work, in questo brano Zoe, che richiama il mitico brano di Fela, Zombie, Little Louis Vega, Kenny Dope Gonzalez in Master at Work. Radio Africa, sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 della modulazione di frequenza di Radio Onda Rossa. loro sono sempre i Master at Work, i Master at Work appunto, nati lavorano a New York, ma sono di origine portoricana, sebbene appunto siano nati nel Bronx e a Brooklyn rispettivamente. Parliamo di Little Louis Vega e Wendy Dop Gonzalez, e hanno fatto parte della scena del Deep House soprattutto negli Stati Uniti, ma poi hanno anche lavorato moltissimo con le sonorità latine. La loro passione poi è diventato appunto l'afrobeat di Fela, e questa versione è Cabo, che appunto mette insieme tantissimi sampler, tantissimi pezzi che ricordano da Shakara Fela e del Master of Work insieme a Vumi, che il cui vero nome è Ibi Vumi Omotayo Olofunke Felicity Olaya, ed è una cantante che è nata a Londra, ma che appunto è di origini nigeriane, ha suonato con i Soul to Soul ed è appunto una degli esponenti più interessanti e affascinanti di questo nu afrobeat. Lei è sempre Volmi dal suo album di inizio, il suo primo album nel 2006, ALA, African Living Abroad, africani che vivono fuori all'estero. E allora lei è insieme a MCLM in questo brano. Sono le 16.57, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 della modulazione di frequenza. Questa è Radio Africa che vi darà compagnia fino alle 18 per questo sabato. Selezioni Afrobeat, abbiamo cominciato di gran carriera e allora Volmi fa parte di quell'ampio settore di artisti nigeriani che vivono all'estero, così come anche il gruppo Weird MC. Il gruppo Weird MC è guidato da Dara Patainer, che è una delle pioniere dell'hip hop in Nigeria, una donna che è molto molto combattiva. Lei è nata in Inghilterra ma dice che è cresciuta al 40% a Londra e il 60% a Lagos. Alla fine degli anni 90 è andata in UK, dove appunto ha fondato un gruppo femminile Afrobeat, e lei appunto ha delle liriche molto diciamo così combattive, e anche insomma si è esposta parecchio anche per i diritti delle lesbiche, e lei ha prodotto questo brano Ijoya, che significa è tempo di ballare, insieme a JJS, che è un altro esponente della diaspora musicale nigeriana. Allora ce la ascoltiamo, Veil MC. Lyrics story Congo, all on Lori Congo, it don't only Congo, that's your life. lui ancora Tony Allen dal suo album Secret Agent, e questo brano I and Low, la voce di Ayo, nome d'arte di Joey Olasunbimbo Okumakin, un po' difficili questi nomi nigeriani, e lei è nata vicino a Colonia nell'80 da un padre nigeriano e da una madre romena, ed è diventata una cantante molto famosa in Europa, ma non solamente in Europa, ed è un tipico esempio, insomma, dei musicisti che appartengono alla diaspora nigeriana all'estero, a York. E si sono fatte le 17.06, sempre ascolto di Radio Onda Rossa, 87.9, la modulazione di frequenza, questa è Radio Africa, vi ricordo anche il contatto telefonico 06 49 17 50. E andiamo alla famiglia Kuti, lui è Femi Kuti, l'ultimo album No Place for My Dream, e allora ci ascoltiamo la quarta traccia, Action Time. try to happy heat. Then the place a hop up from them way. The time where I go, now the time where we day. Now time to put our country right. Femi Kuti, Action Time è sempre tempo dell'azione, dal suo ultimo album No Place for My Dream, Non c'è un posto per i miei sogni, un album molto bello e soprattutto molto combattivo. D'altra parte Femi, insomma, non tradisce la combattività che di Fela. Femi classe 1962, ha creato alla fine del 1980 il suo gruppo i Positive Force con l'appoggio di Dele Sosimi, che era il tastierista di Fela, e poi insomma ha cominciato una sua carriera internazionale. Vederlo dal vivo è uno spettacolo, perché ha veramente una potenza e un'energia che sembra non finire mai. 17:12, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, 87.9 la modulazione di frequenza, questa è Radio Africa. Continuiamo ancora con l'Afrobeat e ritorniamo al progetto Red Hot Riot. Il brano è No Agreement, un brano di Tony Allen ma anche di Fela. No Agreement significa non c'è accordo, e non ci può essere accordo quando le contraddizioni sono insanabili. E allora Tony Allen, Ray Lema, Baba Mal, Positive Black Soul e Archie Sheep. Tomorrow. Nanga iba sanga musala Nano bate Agreement, Tony Allen, Ray Lema, Baba Mal, Positive Black Soul e Archie Sheep. E allora ce ne andiamo ancora avanti, loro si chiamano gli Antibalas ed è un gruppo che si è formato a Brooklyn seguendo le orme di Fela, i suoi Africa 70, ma anche della Eddie Palmieri Harlem River Tribe Orchestra. Ma loro sono influenzati anche dal jazz, dal funk, dal dub e dalle percussioni cubane dell'Africa dell'Ovest. Fondato nel 1998, questo gruppo da Martin Perna come Conjunto Antibalas, il gruppo aveva cominciato a suonare proprio a maggio del 98 in un pub di Harlem, quando c'erano le performance artistiche di un poeta, di una poetessa Xaviera Simmons. E poi naturalmente da lì sono partiti per la loro avventura gli Antibalas, questo è Government Magic. another one, eh? Another 4 year. Magician. Amazing amazement. Wonderful moment. Let's find out this magic. Antibalas, Antibalas da Brooklyn è sempre sulle ali dell'Afrobeat. Da Brooklyn ce ne andiamo a Ottawa, dove incontriamo la Soul Jazz Orchestra, una orchestra fondata nel 2002 da Pierre Chrétien, che anche la Soul Jazz segue le orme dell'Afrobeat. E allora il brano è Freedom No Go Die, la libertà non morirà. Jazz Orchestra in questo brano Freedom No Go Die, 17.29, quindi passata un'ora di Radio Africa, sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 della modulazione di frequenza di Radio Onda Rossa. Vi ricordo il contatto telefonico 06 49 17 50. Soul Jazz Orchestra Afrobeat da Ottawa. Ritorniamo alla famiglia Kuti, al più giovane, classe 1983, Oluseun Anikulapo Kuti, detto Seun Kuti, un'altra potenza, un'altra forza della natura. Dal suo primo album del 2008, Many Things, album prodotto da Martin Meissonier, che aveva anche prodotto altri album di Fela. Il brano è Fire Dance. Yes, make we feel the dance. They go through our heart and soul, may they control our waist and yash, you know. Especially for the women. Because of the day that they move their yash, go left, right, up, down, round and round, you know. Every man got to follow that yash, ni. Anywhere you go, ni. You got to follow him because this is an original African movement. Are you ready? Lui è Femi Kuti, molto spesso questi artisti, soprattutto i giovani che fanno afrobeat, hanno fatto collaborazioni con altri musicisti. In questo caso il brano Do Your Best è insieme ai Fezession, e allora lui è Femi Kuti. Sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa 87.9, la modulazione di frequenza, questa è Radio Africa. Femi Kuti insieme a Fezession, ma non solamente i giovani artisti che suonano afrobeat si sono confrontati con altri manipolatori del suono o con altri appunto gruppi musicali che provengono da altre esperienze. Salif Keita, dal suo ultimo album Talè, Salif Keita è un monumento della musica africana, si è confrontato e ha collaborato con i Roots Manuva in questo brano Sebon. Sebon, e sentiamo quello che è uscito fuori. Hey yo, people in the world, France to the UK, JA to Mali, how we do? Yo, decent people, stand up. From the left to the right. Change when we rearrange it, so look into the mat and prepare thyself. Salif Keita insieme ai Roots Manuva in questo brano Sebon Sebon. 17:45, ancora l'ascolto di Radio Africa dai microfoni di Radio Onda Rossa. E allora, altre collaborazioni fra musicisti o produttori europei e musicisti africani è sicuramente interessante questi Invisible System, che sono un incontro fra la musica etiope e un produttore, Dan Harper, che ha avuto insomma una certa lungimiranza. Questo groove fra il dub e il reggae e la musica etiope. Allora ci ascoltiamo gli Invisible System in questo brano Mama Yei. Mama, mama, mama, yeah. Ethiopia, my mama, yeah. Mama, mama, mama, yeah. Ethiopia, my mama. Selam tay seta to de silal. Anaga gratin etemal. Lalaminta falen en kwanenya. Mana my betanem anenya. Aroma to gray amara grage. Nuru wijan nu to nantanam zare. Mama, mama, mama, yeah. Ethiopia, my mama, yeah. System. E allora si sono fatte le 17:49, ultimi 10 minuti per Radio Africa, e parlavamo appunto di questi incontri fra musicisti europei e africani. Rimaniamo sempre in zona Etiopia. Getachew Mekuria è un musicista, soprattutto un sassofonista che ha anche una certa età. Ebbene, è stato un incontro fulminante con il gruppo olandese degli X, che lo hanno invitato al loro all'anniversario della nascita del gruppo, ne è nata una collaborazione intensa e proficua. E allora lui è Gechawe Mekuria in questo Musica We Silt insieme agli ex. Questo incontro fra Gechawe Mekuria e gli ex, un gruppo punk olandese, insomma, vengono fuori queste sonorità veramente interessanti. E a proposito sempre della musica africana, però dobbiamo registrare una grande perdita, quella di Ibrahima Sillà, che a molti magari non dirà niente, ma questo produttore deceduto a 57 anni a Parigi è stato sostanzialmente un vero e proprio quello che ha fatto nascere, che ha prodotto tantissima musica dell'Africa occidentale, dagli Etoile du Dakar, Youssou N'Dour, all'orchestra Baobab, alla musica congolese, da Nimbo Ba, Pepe Calais, San Manguana e tantissimi e tantissimi altri. Ha scoperto moltissimi artisti, le sue produzioni, la produzione Silla Art ha praticamente dato, diciamo così, un enorme contributo alla crescita e allo sviluppo e alla conoscenza delle sonorità africane per il mondo. Una perdita, anche perché era un talento per quanto riguarda la sua capacità di scoprire le nuove le sonorità e di sostenere soprattutto gli artisti. E allora Ibrahim Sylla lo vogliamo ricordare con una delle sue creature, il gruppo Africando, gli Africando All Star, con questo brano di Son Fo cantato da Sekouba Bambino. Naka kenya na ndofo na ma kenya na ntambola ntese Africando, un brano questo cantato da Sekouba Bambino, Son Fon, per ricordare Ibrahim Sylla, uno dei più grandi produttori di musica africana, appunto deceduto a Parigi a 57 anni, la fine dicembre. 17.59 finisce qua per questo sabato Radio Africa, ma rimanete naturalmente sintonizzate e sintonizzate sugli 87.9 della modulazione di frequenza di Radio Onda Rossa, perché il sabato continua con DJ Lenin e il suo jazz. E allora vi lascio in compagnia di questo brano dei Refugee All Star dal loro ultimo album a Radio Salone, Big Fat Dog. I say I'm